Ehi, com'è possibile vivere con un dollaro e mezzo? Com'è possibile sopravvivere facendo questo? Bro, com'è possibile avere un contratto? Girano delle voci di merda che giurano che l'hip hop non vende un cazzo. Ragazzini, su vitamini che accessi di mezzi pezzi. Mezzi eccessi, mezzi scarsi, mezzi concorsi per spazi. Su compile che risultano spazzatura. Si stanno attori, diminuti attori, protagonisti. Dilettanti per vlog, dilettantistici. Fatturate il mercato, un meno cento. Ogni soldo investito è andato perso. Quindi, avanti con il promo. Regaliamoli, se è un problema di soldi. Aiutiamoli, facciamoli contenti. Autoproduciamoci. Ho solo qualche giorno, qualche soldo. Da ascolta se stesso si è messo in proprio per un successo. Non lo dirà mai. Dai, vorresti dirmi, lasciamo fare i dischi solo a quelli capaci di farli. No, né con l'euro, né con la lira. Sempre più demo, sempre meno roba che gira. Questa è la situazione del 204 in fondo. Nemmeno un dollaro e mezzo compreresti un disco non vostro. Non si compete senza qualifica. Senza qualifica. Quel che senti lascia in strada. Mille, giovane, mille come 2000. Siamo stelle del cielo e tu l'altro zero messo in fila. Questioni di rap sono 21 anni avanti. Mi sto bene a mia crew. Passare in jeans e poi passati tutto. Ciò che so è che sono hip hop che sto con bro e creo diamanti con il mio flow. Cosa credevi amico? Non puoi stare con i migliori. Culi bianchi alla riscossa giù di brutto come neri. Io non mi trattengo, sono una bonga. C'è in tasca che mi basta e vivo fiero come un rasta. 20 anni amico, un micromano, penne e carta. Sono un modo di salvare da sta merda la mia testa. Io so cosa intendo quando parlo di stile. Il tema grasso di New York è la mia guida sul vinile. Sulle mani, voglio vedere man in aria. I don't even fuck, lo voglio stare sin da aereo. E lottare per questo senza palle, resti fuori. Finché dura ad ogni falla, ridi in faccia tuoi avversari. Niente domande, ora sono risposte. La tua roba senza soul farà la fine delle boss. Questo è K.A. più J più King J, ok. Mentre tu chiami Mayday, vogliamo pezzo lì parade, baby. Vogliono fare cash con rap, sti piccoli impresari. Avete mica fuori un demo? No, ma è pronto il merchandising. Non si compete senza qualifica. È sempre lo stesso in quest'Italia. Ci sono troppi protagonisti e non ci sono mai ascoltatori. Troppe prime donne. Long Bridge All Star, Joker, Joe, Dardo, Mash, Rashid, Shiver Flay, Smile Baby, Jacopo Ortiz, Kaiser Arel. E ora lasciamo tutto lo spazio e tutto il merito a DJ Dardo. Vai! Non si compete